Giuzza ca domenica nascisti, o l'uno te portano a battiare, o marton cominciasti a capiscire, o mercurio sapevi cammino. Portano ad maestra, o vennero sapevi ricamare, o sabato dicisti alla tua mamma, domenica mi voglio marito. Mamma, domenica mi voglio maritare.